Mix 24 Estate di Giovanni Minoli. Bentrovati su Mix 24 Estate. Attraverso i principali musicisti, le più importanti tappe storiche, stiamo raccontando gli anni 60 insieme con Franco Schipani e Alessandra Fiori. Oggi ci occupiamo del 1964. Allora Franco, chi è il protagonista della musica quest'anno? È sconosciuto, alla faccia da bravo ragazzo, quello della porta accanto è Mingherlino, ma ha una voce incredibile. In ginocchio da te, Gianni Morandi. Buongiorno, ciao Alessandra Fiori. Buongiorno Franco Schipani. In ginocchio da me, mi piace. Che soddisfazione. Franco, magari. Senti Franco, Morandi, l'eterno ragazzo col ciuffo. Il ciuffo ha fatto scuola, ma lui già ce l'aveva? No, non ce l'aveva il ciuffo. Non era ancora ciuffato? Non in quel momento. Comunque, guarda, io Morandi l'ho sempre sottovalutato, non era uno dei miei favoriti. Cioè, lo sentivo nei miei genitori, quindi già per me era una cosa da anziani, tu mi capisci, no? Un pochino, Franco. Invece poi, a un certo punto, l'ho visto a New York, lui è venuto a fare un concerto, e sono rimasto veramente allibito, perché c'era un teatro a Broadway, 1500 persone che lo aspettavano. Lui è arrivato con una chitarra, ha cominciato ad andare in giro nella platea, e soltanto con la chitarra ha fatto un concerto di 3 ore, una cosa veramente pazzesca. Cioè, un animale da platea, non da palcoscenico. Scusa Franco, questo succedeva negli anni 90, sì, ma nel 64 quanto era famoso lui? Beh, era già famoso perché con questo brano Fatti mandare dalla mamma aveva veramente spopolato. Poi non soltanto faceva dischi belli, ma aveva una grande popolarità anche perché faceva dei film che erano veramente, la gente andava a vederli perché vedeva la moglie, una specie di MTV, non so se mi hai capito. Lo sentiamo, ma che lo fai, cerchi anche di fare il giovane? Franco, mi fai il giovane? Comunque, io apprezzo questi tentativi, dimmi. A proposito di giovani, in quest'anno tu non potevi uscire assolutamente da casa se non avevi due cose: gli stivaletti alla Beatles. Quelli con la cerniera. Anche adesso vale ancora. Sono tornati? Sì, non se ne sono mai andati. E dovevi avere il cappello alla Gianni Morandi. Ecco perché non aveva il ciuffo Morandi. Ecco perché il cappello e non il capello. Senti, ma Morandi comunque sempre avuto questa immagine, no, del bravo ragazzo, non era trasgressivo, dai, Beatles, ma neanche i Beatles erano poi così trasgressivi, per quello c'erano i Rolling Stones. Esatto, no, i Beatles erano ancora visto in giacca e cravatta, cioè erano un loro stile. Comunque Morandi ce l'ha fatta perché è riuscito a tenere un pubblico immenso, aveva le figlie e anche le mamme, perché era proprio il ragazzo della porta accanto. Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Gianni Morandi, 1964, non son degno di te. Altra bella frase. Comunque, altra bella frase. Oggi ti vedo in onda, ce l'hai con qualcuno in particolare? No, Franco, che dici? Comunque, nel 1963, lo abbiamo raccontato, è finito il boom economico. In questo 1964 inizia la recessione. Arrivano le misure dure. Divieto di costruzione di abitazioni di lusso, aumento delle imposte su automobili e barche. I salari medi intanto salgono del 9-10%, che è un po' troppo rispetto al reddito nazionale. e così il ministro del bilancio, Antonio Giolitti, chiede ai lavoratori di non avanzare più richieste di aumenti salariali e anche il governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, chiede l'applicazione della politica dei redditi con il blocco delle rivendicazioni salariali e la sospensione della scala mobile. Ecco, ora gli anni 60, Franco, cominciano a somigliare, a essere un po' più vicini ai nostri anni. Ma Franco, invece, tu mi dicevi Morandi, che in quell'anno, però immagino ci fossero anche altri giovani del genere, bravo ragazzo della porta accanto che piace a mamma e figlia, no? Sì, però questo aveva il ciuffo. Ed infatti nel 1964, al secondo posto in classifica, troviamo uno col ciuffo. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti, tanti mesi ora so cosa sono per te. Bobby Solo, una lacrima sul viso, tu l'avevi riconosciuto, ovviamente, vero? Ovviamente, ma io voglio il nome vero di Bobby Solo. Roberto Satti. Non male. Capito? Perché Bobby Solo? Perché quando lui ha cantato questa canzone, quando l'ha scritta, non era così la canzone, lui è andato in casa discografica e tu ci fai sentire questo pezzo? E lui disse sì. Dietro quella duna spunterà la prima luna, diceva la canzone. Duna, bella. Luna, un po' Cuore Amore, beh, mica male. Era, non era un paroliere, però il pezzo era bello, dice guarda, il pezzo va benissimo, però dobbiamo rifare le parole. Mentre andavo in studio di registrazione con Mogol, quindi in diretta, disse come fa sto pezzo così? Ok, scrivi. E scrissero il testo in macchina in una Renault mentre andavano in studio di registrazione. Finiscono le registrazioni, chiamano Roberto Satti e gli dicono: senti, allora va bene, il pezzo ci piace, ecco, così ci piace. Allora, che nome d'arte ha scelto? E lui disse: Bobby. Disse, ma Bobby come? Che dice Bobby Solo. E loro scrissero Bobby Solo. Così è nato Bobby Solo. Sì, immagino se avesse detto Bobby Solamente, avrebbero scritto sulla copertina Bobby Solamente prima di andare a Sanremo. Magari avrebbero chiesto a quel punto. Non lo so, però perché forse era troppo lungo. Comunque Bobby Solo. Roberto Satti. Esattamente. Ma nel 1964, cara Alessandra, le canzoni, come le relazioni, seguivano due scuole di pensiero. Ecco, sentiamone un'altra. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, io mi innamoro così, guardando a te, vorrei sapere una cosa da te. Domenico Modugno, romanticone. Domenico Modugno che canta in napoletano. Sì, con Tu sei una cosa grande. Comunque, in quel periodo non era l'unico romanticone. Ti ringrazio perché sei ancora mia e mi sai dare tante cose che e mi importa del mondo quando tu sei vicino a me. Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. È l'uomo per me, fatto apposta per me. Separarlo da me ogni giorno. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Mix 24 estate. Franco è l'uomo per me. Bentornati su Mix 24 Estate. Stiamo ripercorrendo attraverso la musica la storia degli anni 60. Oggi siamo nel 1964. Qui c'è Franco Schipani con Alessandra Fiori. Caro Franco, insomma, il 1964 è l'anno dei romantici, mi sembra. Ti sembra? Però c'era gente che la pensava in un modo diametralmente opposto. Cinci, salute a te. Cin cin, Richard Anthony, adesso te ne puoi andare. Le Surfs è la prima che incontro, Fabrizio Ferretti. Franco, un manifesto di vita, la prima che incontro, cioè più di questo che vuoi. Sì, ma adesso non ce n'è neanche più bisogno. Molto chiaro però. Ma chiarissimo. Molto chiaro. Chiarissimo. Beh, adesso non ce ne sarebbe più bisogno, perché basta mandare un tweet, lasciare un messaggio, cioè ritieniti scaricata o scaricato, dipende dai casi, no? Sì, ma tu mi parlavi, no, di due... filoni, romanticismo e la prima che incontro. Chi ha vinto tra le due tendenze? Beh, il golden goal ai supplementari lo ha segnato Ezio De Gradi. Già un anno da che ti eri stancata di me. Sono felice perché so fare a meno di te. Hai visto Ezio De Gradi con La mia festa? Beh, più chiaro di così, cara Alessandra, però, non però si può. Ti voglio dire che Ezio De Gradi tiene il conto, dice già un anno, cioè ce l'ha abbastanza in testa, non è proprio passata. Se la stava preparando, dici? Beh, un pochino sì, voglio dire, quando tiene il tempo così, non è proprio digerita. No, no. No. Comunque, il pezzo non è suo. It's my party, Leslie Gore, la mia festa. Ma lo capito? Senti, ma io ti voglio dire, ma lo senti che le donne hanno una marcia in più? Ah, no, lei gliel'ha detto veramente bene. Cioè, è un'altra cosa. Non vedi? Si è fatta commuovere, ha detto ma ti no. Devi proprio togliere dalle scatole. Ma ti dico, ma è impressionante perché la stessa melodia, due effetti completamente opposti. La prima, così. La seconda, Migliaccio in regia balla. Quindi le donne hanno una marcia in più. Vabbè, questo è un leasing autorizzato. Questo qua che di Ezio De Gradi. Un furto, vuol dire? No, è un leasing, non è un furto, se lo sono prestato. Comunque non è un leasing e non è un furto, ma un prestito, quello che nel 1964 ci concedono gli Stati Uniti, $1 miliardi. Lo stesso fa il Fondo Monetario Internazionale, che però ci dà $225 milioni. Ed è costato invece 270 miliardi di lire un progetto che unisce il nord al sud del paese. 8 anni di lavoro. 15 milioni di giornate lavorative, Ed oggi nord e sud si danno la mano attraverso l'autostrada del sole. È lunga 755 chilometri, da Milano a Napoli. 8 anni di lavoro e oggi nord e sud si sentono più vicini. Il 4 ottobre del 64 viene inaugurata dal presidente del Consiglio Aldo Moro l'autostrada del Sole, un'opera straordinaria, Franco. A Milano si inaugura la metropolitana e nello stesso momento l'Italia si collega anche alla Svizzera tramite il traforo del Gran San Bernardo, quasi 6 chilometri di tunnel. Nella musica invece stiamo uscendo dal tunnel del romanticismo, mi pare, in questo 1964. È finito? Dai. A proposito di tunnel, dice, il tunnel. Ma quando mai? Comunque ma... posso dirti una cosa sul tunnel, che è per me è la battuta sul tunnel più bella di tutti, è quella della Cucciari. Dimmi. La posso ripetere? Beh, ovvio. Se non puoi uscire dal tunnel, arredalo. È bellissima questa. Va bene, scusami Franco. No, dicevamo del romanticismo, ritorniamo al romanticismo. È finita? E non è assolutamente finito, perché la melodia non è che si può arrestare, quella italiana. E infatti nel 1964 questa melodia ha prodotto dei pezzi straordinari. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Una rotonda sul mare, Fred Buongusto e Amore scusami di Fausto Papetti. Ecco, quando io stavo cercando informazioni su Fausto Papetti per aggiornarmi, per carità, solo per aggiornamento, sì, ho cliccato sui dischi che sono stati pubblicati di lui, metto pagina da stampare 987.430. Franco, ma perché ho detto no, aspetta, basta, mi bastano questi. Anzi, io sospetto una cosa, perché tu stampi tutto. Ma io stampo perché voglio essere, cioè, volevo un aggiornamento su Papetti, lo dovevo fare. Allora, io sospetto una cosa, che quando facevano i dischi in quegli anni dicevano: questo è un bel pezzo, chissà se lo farà Fausto Papetti, perché è proprio lui che poi li portava fuori dai nostri confini, capito? Ho capito, ma l'hai plastificate poi le 900 pagine? Adesso devi anche dire che io sono un maniaco di plastificazione. Lui è il plastificatore della redazione. Se vuole dare qualcosa a Franco Schipani te lo porta plastificato. Ma sì, perché quando do gli appunti di solito dicono: ah sì, va bene, lo strappano, lo mettono da parte, plastificato invece resta, mia cara Alessandra. Perfetto, Franco. Intanto in Italia nel 64 succede qualcos'altro di eclatante? Arriva un venticello dalla California carico di surf. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at the inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trinidad, inside, outside USA. Australia's Nairobi, inside, outside USA. Oh, the Beach Boys con Surfing USA, che sono i capostipiti di questo genere, mia cara Alessandra. Mio caro Franco, lo vedi? Ti dicono che fai il ballo del bilanciere, cioè quello che fa finta di alzare il bilanciere con le braccine alte così. A proposito di alzarsi, sì. Guarda che io ho cominciato a fare del surf anni fa in Repubblica Dominicana e stavo andando anche molto bene, soltanto che c'era un piccolo problemino quando mi hanno cominciato a dire dopo un po': ci vediamo domani mattina in spiaggia alle 5.47. Franco, ma 5.47. È il fascino dell'onda all'alba, se non capisci questo. Sì, vabbè, ho capito, sì. Va bene, l'alba me la vedo in televisione. Comunque, scusami, non sapevo di questo tuo talento per il surf. Non è un talento, ci ho provato. È uno spirito. Sì, mi sono divertito però, devo dire. Senti, ma dimmi un po', intanto, in Italia, come ce la caviamo noi con il surf? Ma guarda, gli italiani se la sono cavata la grandissima con il twist. Immagina con il surf. Come il vibrar di una molla mi viene la tremarella ballando il surf. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Mi sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuor. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? E lo voglio dare in testa a chi non mi va. Sì, sì, sì. A quella smorfiosa con gli occhi dipinti che tutti quanti fan ballare lasciandomi a guardare. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mix 24 estate. Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? E lo voglio dare in testa a chi non mi va. Sì, sì, sì. Bentornati su Mix 24 Estate, musica e storia. Oggi siamo nel 1964, io sono Alessandra Fiori, sono qui con Franco Schipani. Cosa stiamo ascoltando, Franco? Stiamo ascoltando Datemi un martello di Rita Pavone. Rita Pavone versione surf. Sì, ma ti rendi conto, questo brano l'hanno scritto, interpretato Peter, Paul e Mary, che è un gruppo serissimo del folk americano. È come se per esempio Fedez oggi facesse un brano della nuova compagnia di canto popolare, tanto per intenderci, non so se per intenderci, ci siamo inteso. Capiti. Ecco, te lo voglio far ascoltare nella versione originale. If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening, over this land, I'd a hammer at danger, I'd a hammer at warning, I'd a hammer at love between my brothers and my sisters, oh. If I had a hammer, se avessi avuto un martello, di Peter, Paul e Mary, capito Alessandra? Lo sai che io ho una passione per il folk, per il country, te l'ho detto. Lo sappiamo, quindi lo sei, sai, anche una fan di Pete Seeger. Molto. Allora, Pete Seeger ha in qualche modo influenzato una schiera di folk singer americani incredibili, non ultimo Bob Dylan. Adesso voglio uscire un attimo dal seminato perché è recentemente scomparso Pete Seeger e dobbiamo assolutamente rendergli omaggio. May God bless and keep you always, may your wishes all come true, may you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. Pete Seeger con Forever Young, un brano poi portato al grandissimo successo internazionale anche da Rod Stewart, cara Alessandra. Franco, Forever Young, per sempre giovani. Lo sai quanti eravamo nel mondo nel 1964? Tanti, sicuramente. Tanti, abbastanza. 3 miliardi e 250 milioni. La Cina è il paese più popoloso, 700 milioni di abitanti, ovvero il 20% della popolazione mondiale. La città più abitata è Tokyo, 8 milioni e 613 mila. Poi c'è New York, con 7 milioni e 781 mila. E poi ancora Shanghai, 6 milioni e 900 mila. Negli Stati Uniti intanto viene confermato presidente Lyndon Johnson, che porta avanti la battaglia di Kennedy sui diritti civili e firma il Civil Rights Act, che proibisce la discriminazione razziale nell'impiego, nei luoghi pubblici e nelle associazioni sindacali. Ma intanto il 12 giugno del 1964 Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo con l'accusa di alto tradimento. Leader dell'African National Congress, Mandela ha guidato per anni la lotta contro l'apartheid, il regime di segregazione razziale imposto alla popolazione nera del Sudafrica. Nel 1990, dopo 27 anni di detenzione, Mandela tornerà un uomo libero. E proprio in quell'anno, in un'intervista con Giovanni Minoli, si racconta così. Senta, dottor Mandela, ma dopo 27 anni di prigione si riesce ancora a conciliare la speranza e i sogni con la realtà? A dire la verità, io non ho mai avuto né sogni né speranze. Speravo solo, il giorno in cui sarei stato liberato, di far parte dell'African National Congress e di avere un ruolo attivo nella lotta. Il 1964 è anche l'anno in cui iniziano le proteste contro la guerra in Vietnam, mentre a Gerusalemme viene fondata l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Ma Franco, restiamo ancora per qualche istante fuori dall'Italia. Che succede nella musica internazionale? Nel 1964, cara Alessandra, esplode l'era dei Beatles e nulla, dico nulla, sarà più come prima. Hai capito? I Beatles li ho dovuti per forza mettere tutti, carissima, perché nel 1964 hanno avuto tutti questi dischi in classifica in Italia e quindi se lo meritavano, anche perché i fans dei Beatles qui da noi sono ancora tantissimi. È certo che sono tantissimi, sono pazza dei Beatles. Comunque Franco, tu capisci che dopo questo mix è un po' dura passare a Sanremo, è lì che vogliamo andare? Lo stai per fare? Non ancora. Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te e non avrei, non avrei nulla da dirti. Lascia che non ho l'età, Gigliola Cinguetti, capito? Ho capito. Nel 1964 Gigliola Cinquetti vince Castrocaro con una canzone di Gabber, pensa, Le strade di notte, partecipa al Festival di Sanremo quando ha solo 16 anni e viene giustamente accompagnata dai genitori perché non ho l'età. Non ha l'età. Comunque lei vince anche altre manifestazioni internazionali, compreso l'Eurofestival, capito? Però Franco, scusami, mi sorprendi un po' perché tu hai nominato Gabber. Quindi no. Gabber non può passare inosservato. Ma non puoi liquidare così Gabber, siamo impazziti. Va bene, ok. Allora prendiamo due piccioni con una fava e sentiamo Gabber e Cigliola Cinquetti. Sono molto contento che tu sia venuta nella mia trasmissione. Grazie. No, devo dirti molto che contento sono molto contento anche perché hai avuto in questo periodo dei grossissimi trionfi. I trionfi da Castrocaro a Copenaghen, a Sanremo, a Parigi. Però io so che tu sei rimasta una ragazza semplice che continui a studiare, vero? Studi? Sì, studio privatamente. Ecco, io veramente mi chiedo come faccia a studiare, veramente. Adesso ti chiedo... In treno, in aereo. Ti chiedo un favore, e cioè di cantare la canzone con la quale hai cominciato a Castrocaro, che tra l'altro era anche una mia canzone, quindi mi fa particolarmente piacere. Beh, è un favore anche per me. Sì. Ecco, il 26 agosto del 1964, a 71 anni, muore a Yalta Palmiro Togliatti, leader del Partito Comunista. E così il senatore Umberto Terracini lo ricorda il giorno del suo funerale. Noi non ti diciamo addio, compagno, fratello amatissimo di elezione, maestro saggio, paziente, insostituibile. Noi non ti diciamo addio, perché noi ti incontreremo ancora ovunque una coscienza si schiuderà alla parola del socialismo. Intanto il 14 maggio a Corleone viene arrestato il capo di Cosa Nostra, Luciano Liggio, latitante da 16 anni. E dopo un breve mandato il presidente della Repubblica Segni si dimette per malattia e viene così eletto Giuseppe Saragat, il primo presidente della Repubblica socialista. Franco, ti ho anche detto che l'economia inizia a scricchiolare e iniziano le proteste degli operai. Intanto al governo c'è Moro, con un programma di centrosinistra. E proprio quell'anno, nel 1968, nasce l'ipotesi del cosiddetto piano solo, un tentativo di colpo di Stato che l'arma dei carabinieri avrebbe portato avanti in caso di grave crisi politica. Mia cara Alessandra, anche nella musica c'è in atto un piano sovversivo, non a questo livello, però insomma importante. Perché? Perché si è capito ormai che il festival ha dei problemi, o potrebbe averli, perché è arrivato il Cantagiro, il disco per l'estate, il festival bar, quindi stanno tentando di spodestare discograficamente Sanremo. Ecco, ma io voglio capire una cosa, Franco, ma alla fine era più importante vincere Sanremo o una delle varie manifestazioni estive? Alessandra, cioè, Alessandra, bisognava vendere i dischi, bisognava vendere i dischi. Ma tu dove saresti andato? Ma io a tutte e due, ovvio. E dovendo sceglierne uno? Ma io sarei andato in giro l'estate, anche perché era Franco molto più divertente . E tutti i big, tutti, anche Gianni Morandi, andavano volentieri in piazza. La notte fatta per amare, ma per chi è solo come me. La notte fatta per soffrire e ricordare chi non c'è. Sulla spiaggia, sulla spiaggia. No, l'avranno visto come ando. Con te sulla spiaggia, con te sulla spiaggia non ci sto. Sei diventata nera, nera, nera. Sei diventata nera come il capo. Sei diventata nera, nera, nera. Sei diventata nera come il capo. Estate e tu eri con me, era d'estate poco tempo fa. Ora ogni volta Polanca, la notte fatta per amare, nel Sedaca, con te sulla spiaggia, Nico Fidenco, sei diventata nera, Los Marcellos Ferial, ed era d'estate, Sergio Endrigo. Franco, scusami, Endrigo, bravissimo, per carità, però ti devo dire, io, forse per ignoranza, sicuramente per ignoranza, però non ho memoria di un suo brano, diciamo, allegro, leggero, ecco. Non l'hai mai visto sorridere? E qui ti sbagli perché esistono delle prove video. Endrigo ha sorriso una volta, mi ricordo benissimo, l'ho anche controllato su YouTube, alle ore 22:25 del 3 febbraio del 1968. Non si sa perché, ma ha sorriso. Ci sono le prove, Alessandra. Ma lo sai invece chi sorride tanto tanto il 20 aprile del 1964? La Ferrero. Ma il sorrido pure e anche io. Noi, anche, esatto, sorridiamo la tantissimo. Nutella. Bravo, perché nasce il primo barattolo di Nutella. E appunto si accinge a conquistare tutto il paese e tutto il mondo. E poi nel 64 arriva anche la bambola bionda più famosa del mondo, la Barbie, ed è subito boom commerciale. E poi nell'estate del 64 si continua a sorridere perché arriva in Europa un nuovo costume da bagno, quello senza la parte superiore presente, il topless, Franco. Ma lo sai che in Italia alcune signore che portano pubblicamente il topless vengono allontanate dai bagni pubblici perché sono state giudicate scandalose. Invece nessun problema per la trentenne inglese Mary Quant, che scopre le gambe delle donne e inventa la minigonna, Franco. È il tuo anno? Oddio, sì, mi ricordo. Topless, minigonne, Nutella, rivoluzione. E allora, rivoluzione per rivoluzione, andiamo in Inghilterra con questo gruppo. There is a house in New Orleans. They call The House of Rising Sun, The Animals, gli animali. Anche qui noi, mia cara, abbiamo fatto la nostra piccola rivoluzione, perché alla base di questo disco c'è il famoso Farfisser, che è uno strumento che ha cambiato in qualche modo la musica di quegli anni. Quindi noi italiani siamo stati dei protagonisti anche nella storia del rock con i nostri strumenti. Io lo so strumenti. Che tu sei un insider assoluto, però vogliamo dire, Farfisa cos'è? Una tastiera? È una tastiera. Oh, ecco, una tastiera. Ah, scusami. Sai, io sono antico, penso che tutti quelli della mia età sappiano che cosa sia una Ma Farfisa. Ma quelli della mia non ne sanno nulla. Che cosa sai invece tu? Tipo elettrodomestici, queste cose qui, mi sembra. Ecco, lo vedi, mi metti subito negli elettrodomestici. Franco, questa è una strada molto pericolosa, molto molto pericolosa. Comunque, a proposito di beni di consumo, dopo la macchina e la televisione, gli italiani comprano tutto. Esplode la domanda di beni di consumo, cibi, vestiti, prodotti per la casa. Ma poi il vero e proprio boom è quello dell'automobile. La Fiat nel 64 ne vende 4.000 al giorno e nella sola Milano circolano 1 milione di autovetture. Vogliamo parlare di macchine? Allora andiamo in America, a Detroit, la capitale di dove si fanno, le costruiscono e sono le macchine americane. Però Ford. Questa volta ci andiamo con la Motown Records, quella di Detroit, dove nasce un sound che passerà alla storia come il Motown Sound. Vandellas, Dancing in the Street, musica nera ovviamente, perché dopo essersi fatti sfruttare dai bianchi in tutti gli anni 50 hanno detto: ci facciamo la nostra etichetta, l'etichetta di musica nera, Motown Sound, yeah. Comunque, se gli afroamericani sono i padroni nella musica, non è che sul ring le cose vadano molto diversamente. Il 25 febbraio del 64 Cassius Clay, The King, batte Liston e diventa campione mondiale dei pesi massimi. Il vincitore per knockout al settimo round è Cassius Clay. Sono il più grande campione del mondo che sia mai esistito. Non ho nemmeno un livido in faccia mentre Sonny Liston è scoppiato. Ho appena compiuto 22 anni, sono io il più grande. Io parlo con Dio ogni giorno e se Dio è con me, nessuno può mettersi contro di me. Ho scosso il mondo, io sono il re del mondo. Ferma, ferma, ferma. Io sono bello. Calma, non sei poi tanto bello. Sono un uomo cattivo, ho scosso il mondo, ho scosso il mondo! Ha scosso il mondo, è un giorno leggendario per la box, ma non solo, perché il giorno dopo la vittoria il campione si converte all'Islam e da quel momento per tutti diventa Muhammad Ali. Sempre negli Stati Uniti, Federico Fellini vince l'Oscar con 8,5 e per il regista italiano è la terza volta. E poi esce un film con una colonna sonora di quelle indimenticabili. È Per un pugno di dollari di Sergio Leone con Clint Eastwood e la colonna sonora firmata dal maestro Ennio Morricone, Oscar anche lui da quest'anno. E poi c'è un indimenticabile discorso che il 14 ottobre del 1964 pronuncia Martin Luther King, vincitore proprio quell'anno del premio Nobel per la pace. Quel famoso, famosissimo discorso si conclude con queste parole. And peace is more precious than diamonds, or silver, or gold. Thank you. La pace è più preziosa dei diamanti, dell'argento o dell'oro. Il premio Nobel per la letteratura va invece a Jean-Paul Sartre, ma lo scrittore lo rifiuta. E fa, ed è un grandissimo scandalo, oltre che un vero e proprio caso. Il mio rifiuto, dice, non è un atto di improvvisazione. Lo scrittore deve rifiutare di lasciarsi trasformare in istituzione, anche se questo avviene nelle forme più onorevoli, come in questo caso. Intanto al MIT di Boston, tre giovani ricercatori, che sono Louise Poussin, Glenda Schroeder e Pat Crisman, inventano una cosa che ha un pochino cambiato la vita di tutti quanti, Franco. La mail. La posta elettronica, sì, però sai quante foreste pluviali sta salvando questa la cosa? Mail. Sì, assolutamente. E il 64 è l'anno di due matrimoni molto particolari e anche molto, molto semplici a loro modo. A Montreal si sposano Liz Taylor e Richard Burton. Un rito semplice, una decina di invitati. La sposa indossa un unico gioiello, una spilla di bulgari con smeraldo centrale e diamanti, mentre a Grosseto alle 3 di notte, in grandissimo segreto, nella chiesa di San Francesco, si sposano Franco, Adriano Celentano e Claudia Mori. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e sono tristi. Gli altri sono tristi, ma intanto a Vienna l'Inter di Elenio Herrera batte il Real Madrid per 3-1 e vince la sua prima Coppa dei Campioni. L'Internazionale di Milano, vincitrice della nona edizione della Coppa dei Campioni. Franco, anche oggi siamo arrivati alla fine del 1964. E allora la domanda te la faccio io. Come chiudiamo oggi, Alessandra? Franco, come al solito, con una scelta che spacciamo per nostra, ma non è nostra. La scelta di Antonella Migliaccio, una canzone del passato che diventa del presente ed è un meraviglioso brano di uno dei caposcuola dei cantautori genovesi. Lo ha scritto ed interpretato Bruno Lauzi, ma invece noi ve lo facciamo ascoltare in una versione più moderna. Intanto vi salutiamo, vi diamo appuntamento al 1965 con Franco Schipani e Alessandra Fiori. E adesso sentite Morgan. Mi tornerai. Lo so, ritornerai. E quando